Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Pedagna di prima perché la gara non è finita. Prova De Boer, la mette in mezzo con coraggio. Poi arriva Freuler. Freuler! Buffon, la palla è lì! Remo! Freuler! 2-2! Eccolo Lulic col tocco morbido in mezzo. De Rossi che sfiora il pallone. Prova ad arrivare, basta, basta! Conclusione deviata! 2-1 Lazio! Il gol di Basta che trova l'angolo al minuto 50! Ancora Lulic, c'è Keita dall'altra parte, 2-1, Lulic potrebbe andare anche da solo, Lulic apre, Keita! 3-1 Lazio! L'ultima curva con Sebastian Vettel arpionato alla sua ala posteriore, con Valtteri Bottas che vince il Gran Premio di Russia, vince per la prima volta in carriera, lo fa davanti a Sebastian Vettel che ci ha provato fino alla fine. Nallini la prolunga, Trotta si gira, Trotta va in botta e il Crotone trova il gol del vantaggio con Trotta, 1-0. Vuole sfidare Maxwell, lo salta, poi sterzata, limite verso Balotelli, ma fuori Verratti, Super Mario! E voilà! Balotelli, gol fantastico! Il Leeds in vantaggio! Insigne si accentra, va al cross dentro per Mertens che non la prende, tagliato fuori, poi male Nagatomo che regala a Callejon il gol del Napoli con Callejon al 50%, ma mezzo gol l'ha fatto Nagatomo, Napoli in vantaggio al 43esimo. Qui c'è dentro proprio tutto in un weekend che poteva essere qualunque cosa ma non banale, infatti così è stato. Non c'è dentro il caso Muntari, ma poi ne parliamo se ne avete voglia, tanto che ovviamente siamo qui in diretta, 1° maggio, 8:00 24:00 24, come sarà in diretta Giuseppe Cruciani, gongolante per la Zanzara. Ciao. Per la Zanzara no, gongolante per il derby, che è successo ieri, sì. Gongolante per il derby, poi la Zanzara meno gongolante, ma comunque la Zanzara in diretta. Più assolutamente tardi, sì. Più tardi, e in diretta anche Tiki Taka. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Gongolante anche per il fatto di lavorare il 1° maggio, secondo me il signor Cruciani. Ma io lavoro, non faccio nessuna differenza. Non fa nessuna differenza. Non fa, esatto, nessuna differenza. Conosco molto. Non siamo mica nell'ex Unione Sovietica. No, sì. Ma se capita che durante i giorni dal lunedì al venerdì si va in onda, come è normale che sia. Anche, tra l'altro stasera grande ritorno in macchina per un sacco di gente, per cui pubblico. Sì, poi le primarie. Driving time, come direbbe Barilloni. Drive time. Che sembra un drink. Ma ragazzi, devo dirvi una cosa. Allora, alla fine del primo tempo di ieri, partita che ovviamente non ho visto, ma ho seguito indirettamente, perché ormai è impossibile. Hai fatto cosa? È impossibile. Ieri? No, ieri non mi sono inventato niente. Ero con mia figlia. Ero a pranzo. E dunque è stato abbastanza facile. Anche se poi intorno avevo qualche disturbatore che ogni tanto mi avvertiva delle cose che avvenivano. Io stesso ho aperto il telefonino, a un certo punto sono andato su uno di questi siti che danno i risultati, così ho visto il risultato del primo tempo e subito mi hanno detto di quello che era successo, però ho avuto la sensazione molto chiara che prendere un gol così alla fine del primo tempo o era il disastro più assoluto dal punto di vista della testa, oppure la situazione si ribaltava e comunque non avremmo perso. La mia sensazione era questa. Sono delle cose, capisco, che non hanno nulla a che fare con la razionalità, evidente. Giuseppe, ma sono le mie sensazioni alla fine del primo ma tempo. La testa della Lazio è esattamente come la tua, di granito. Bah, non lo so, la Lazio quest'anno ha una testa perché ha un allenatore che è riuscito nella straordinaria impresa di entrare in empatia. Uso questa parola. Mi fa schifo. Un'empatia, però è vero, in empatia con, credo, con tutti i giocatori, nessuno escluso, anche quelli che sono in panchina e che magari spesso... Tanto che ieri Pier l'ha decisa Keita, che tra l'altro Immobile ha dato forfè un quarto d'ora prima della partita, una cosa che ti sconvolge i piani, ti scombussola, no? Ti manda gambe all'aria normalmente, anche emotivamente. Ecco, io credo, Pier, che Inzaghi sia esattamente l'opposto di quello che ha fatto Spalletti quest'anno. Credo, cioè, che sia l'opposto di Spalletti, rapporto, che somigli molto nel rapporto con la squadra, credo, la mia impressione è questa. Sì, assolutamente. Poi parliamo anche di Spalletti. Allora, il punto di partenza, mi spiace ripetermi, è che la Lazio è la squadra più sottovalutata d'Europa, probabilmente, nel senso che la Lazio è una squadra fortissima, poi non ha probabilmente i migliori tifosi che hanno le tre grandi del nord, il Napoli, e forse anche meno tifosi della Roma, non lo so, lo lasciamo agli statistici, quindi fa magari meno notizia, però la Lazio è fortissima, questo è un dato oggettivo. Ieri non è che l'ho visto ieri, Biglia, che dir si voglia, è un calciatore che hanno in pochissimi in Italia. Milinkovic Savic è un centrocampista incredibile, la difesa ha una quantità di soluzioni pescate, devo dire, da Tare. Crociani non è un antilotitiano, ce ne sono tanti ancora, forse ce ne sono meno di prima. Io credo che si debba distinguere l'aspetto, diciamo, mediatico, le gaffe, un certo presenzialismo che adesso, devo dire, si è anche tolto Lotito saggiamente, da quello che poi è il risultato sportivo. Il risultato sportivo è la coppia Lotito-Tare, è una coppia che sta ottenendo risultati importanti, che va andando a pescare dei giocatori incredibili, cioè che la Lazio abbia quella classifica lì, con probabilmente la metà del budget del Milan, mm-hmm, e dell'Inter e della Roma e del Napoli, che sia lì, insomma, la Lazio è veramente... Ma non è una sorpresa, non è una sorpresa. Beh, insomma, non è una sorpresa. Allora, diciamo la verità, che ad agosto sarà stata anche colpa nostra, sicuramente. Ad agosto nessuno, un po' per i casini intorno all'allenatore, un po' per lo scetticismo intorno a Simone Inzaghi, che sembrava una soluzione di ripiego, un po' per la difesa, perché oltre a De Vrij, certamente al di là di De Vrij c'era questa incognita Wallace, di questi acquisti, anche lo stesso Bastos all'inizio si pensava che fosse una specie di scarto. Devo dire che su Wallace anch'io devo ricredermi, avevo detto assomiglia di più nel derby d'andata, quando fece quell'errore e che spalancò la vittoria da Roma. Fino a quel momento non aveva, tra l'altro, giocato malissimo Wallace, anzi aveva tenuto, avevo detto sembra quasi un giocatore di pallacanestro dal nome Wallace dei Golden State Warriors, piuttosto che un giocatore di difesa. Invece devo dire che è cresciuto molto dal punto di vista tecnico. Adesso non sarà certamente un campione, però se uno fa il paragone tra un investimento come quello del Milan su Romagnoli e Wallace, ecco, dal punto di vista tecnico, secondo me in questo momento non è che ci sia molta differenza, insomma. Senti, aspetta un attimo, a Paolo Cento cosa vuoi dire? Paolo Cento è grande tifoso della Roma, credo che sia ancora presidente del Roma Club Montecitorio. Buongiorno, mi state a parlare della Lazio, ricordare che la Roma ha 8 punti sopra la Lazio. Ci mancherebbe pure che non li avesse, Paolo, 8 punti sopra. Io lo dico, dopodiché complimenti alla Lazio, perché su 4 derby negli scontri diretti ha dimostrato di essere squadra tatticamente meglio messa della Roma. E qui arriviamo al discorso su Spalletti, mi pare, no? Certo. Ma sai, Spalletti errori li ha commessi, e non abbiamo mai la controprova di che cosa sarebbe stata questa stagione della Roma con un altro allenatore, diciamo, del livello di Spalletti. Io dico che la Roma ha giocatori sopravvalutati, e quando le partite sono partite che contano, la Roma paga il prezzo di qualità in campo che non c'è. Tipo? E poi... Sopravvalutati tipo? Beh, ieri abbiamo visto una fase difensiva assolutamente inadeguata per una squadra che vuole competere per arrivare al primo posto nel campionato italiano di calcio. Non si può fare la fase difensiva in quel modo, e i giocatori della difesa le lacune l'hanno dimostrate. Spalletti qualche errore l'ha fatto. C'è una società e anche una proprietà che dovrebbe essere più presente, perché la tiritela Spalletti me ne vado, non me ne vado, rinnovo, non rinnovo, nelle grandi squadre non sarebbe accaduta. Ecco, no, questo è un problema. No, un su problema. Quest'ultima cosa devo dire che Paolo Cento ha ragione, nel senso che sicuramente nel corso degli ultimi mesi questo balletto intorno a Spalletti, anche le sue uscite mediatiche, hanno provocato qualche crepa nella convinzione dei giocatori, come è successo peraltro nel Barcellona di Luis Enrique. Però sulla questione tecnica io non sono d'accordo, anche qui si va a corrente alternata nei giudizi. Fino a poco tempo fa, Pierluigi te lo ricorda sicuramente, la difesa della Roma era considerata, non dico impenetrabile, ma insomma un punto di forza della squadra per un periodo del campionato. Le squadre di Spalletti sono sempre state squadre che non hanno brillato nella fase difensiva, diciamoci la verità, sono sempre state squadre che hanno segnato e hanno anche subito. Sì, però c'è un elemento solo di verità. Tecnicamente la Roma è seconda, secondo me manterrà il secondo posto, e devo dire la verità, il vero neo, considera che la Roma è in vantaggio negli scontri diretti, per cui può arrivare anche pari. Ma la Roma 12 punti non credo li possa fare, onestamente. Non lo so, adesso vediamo. Scusa Pier, c'è un'altra cosa, tu dici non li può fare. La Juventus non è nemmeno escluso che arrivi a Roma alla campione d'Italia, e 3 giorni prima della finale di Coppa Italia, se la Juventus andrà in finale di Coppa dei Campioni, io credo che a Roma potrebbe schierare pure, non dico la terza, la quarta squadra, ma insomma una cosa del genere. Se la Juve arriva a Roma da campione d'Italia, vuol dire che la Roma ha perso già 2 punti, perché se la Roma vince a Milano col Milan, la Juve scende, e questo certamente non aiuta la Juve. È detto, potrebbe anche perdere, potrebbe anche pareggiare la Juventus con il Toro e vincere, perdere no, la deve Roma. Fare un risultato, ragazzi, peggiore della Roma, ha ragione Pier, la Juve vince il campionato se batte il Torino, se fa un risultato peggiore, se fa un risultato quindi peggiore della Roma, se la Juve guadagna un altro punto comunque sarà partita, a meno che appunto la Roma non perda altri punti. No, io non vedo la Roma onestamente che fa 12 punti, penso semmai che il Napoli, che comunque ieri ha dato una bella dimostrazione, ha 2 partite secondo me col Torino e soprattutto con la Samp all'ultima giornata che non si porta da casa. Il Napoli non è una squadra perfetta, sono squadre che non hanno nulla da dire, però cioè sia Torino, però guarda che anche Sassuolo settimana scorsa non aveva nulla da dire. Devo dire, questo è un aspetto, poi se poi ne parliamo, secondo me positivo del calcio di oggi, quello sì, certo. Molto post calciopoli, cioè ieri abbiamo visto il Chievo andare a vincere in casa del Genoa, adesso chiaramente dispiace per un grande club come il Genoa, però è una dimostrazione di grande professionalità Sassuolo rispetto con l'Empoli. No, secondo me Paolo dice una cosa giustissima, cioè c'è un piccolo, ma questo è un elemento complessivo, c'è cioè un quid di sopravvalutazione continua della Roma e di sottovalutazione della Lazio, che se vogliamo non è tanto soltanto una valutazione di carattere tecnico, è proprio un fatto di ambiente. Cioè la Roma parte ogni anno con una squadra forte, sicuramente è forte questa squadra. Beh, la Roma ha più talento cioè, rispetto alla Lazio. La Lazio, come direbbe qualcuno, qualcuno è stato presidente del Milan, molto più coesa. Ci fermiamo per il traffico e torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Io mi limito a far notare a Cruciani, Pardo e Paolo Cento che ad esempio Keita è arrabbiato, è incazzato, nero, non gioca mai, ieri ha giocato perché Immobile non ce la faceva, entra migliore in campo, Dzeko esce la partita precedente a Pescara sfanculando Spalletti, ieri praticamente inesistente, forse la differenza sta anche qua, se parliamo della partita di ieri è ovvio la Lazio è più coesa, come hai detto tu, ci mancherebbe altro. Ma io dico che in generale c'è una sopravvalutazione leggera della Roma e una sottovalutazione invece non è pesante della Lazio. Cioè Keita, Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo, De Vrij, un portiere che para. Cioè la Lazio Immobile, la Lazio ha 8-11esimi da grande squadra. Sì, però attenzione, all'inizio dell'anno Immobile era un'incognita, perché comunque veniva da un paio di campionati non all'altezza. Milinkovic-Savic era tutto da scoprire, l'anno scorso aveva giocato poco, credo che alla fine si fosse anche infortunato. E De Vrij, sì, certamente era un bastione della difesa, e adesso ce lo contendono in tante squadre. E poi non è che ci fosse, Keita era partito scontento, insomma lo scetticismo era giustificato. Il merito è di Inzaghi, non ci sono dubbi, il merito secondo me, ribadisco, è di Tare. C'è anche la società, ragazzi, c'è la società nella Lazio, poi si può dire tutto sul Lotito e anche il contrario di tutto, ma dentro Formello si sa qual è la gerarchia e qual è la linea di comando delle responsabilità. Questo non sempre è accaduto nel corso di questa stagione. È bello sentir parlare Paolo Cento di gerarchia e di linea di comando. Ma le gerarchie sono gerarchie peraltro dovute anche alla qualità e alla quantità degli stipendi. È importante sapere che ci deve essere una gerarchia, un ordine di comando. Vi ho dato la notizia. Nel calcio ci vuole la gerarchia di chi comanda, ragazzi. Ci vuole l'uomo solo al comando. Non c'ha l'uomo solo, manco 10 ce n'ha, questo è il problema da Roma. E poi si è parlato troppo di stadio, diciamo anche un'altra cosa, l'ambiente Roma, questo ambiente tanto chiacchierato che poi è molto meglio della sostanza di quello che vediamo nella squadra quando scende in campo. Si è parlato solo dello stadio della Roma, che sarà pure importante, ma i tifosi vivono di risultati, vivono di successi, vivono di trofei alzati, anche quella Coppa Italia che tanto viene dimenticata. Però quando arrivi alla fine dell'anno e vedi qualcun altro che gioca la finale di Coppa Italia, un po' conti ti viene l'Argentina. Da ma perché la Roma arriva a quelle partite lì con una pressione addosso che la Lazio non ha. Cioè, la verità è questa, però c'è un eccesso di aspettativa sulla Roma, il punto è c'è un eccesso di aspettativa sulla Roma. No, ma Roma e Napoli sono due società e due squadre sfibrate perché da anni fanno una gara eroica da un certo punto di vista per riuscire a competere con una squadra che è superiore da mille punti di vista, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'organizzazione, e si stimolano, si logorano in questa... Secondo me l'unica... certamente la Roma doveva puntare a un certo punto sulle coppe, non era una squadra che poteva reggere tre fronti, e devo dire che quello che... la stagione a Roma, se arriva seconda, è una stagione comunque positiva, perché arrivare secondi oggi al campionato italiano comunque ti permette di avere degli introiti, di non avere i preliminari di Champions League, almeno quest'anno, per cui è comunque secondo me una stagione positiva. Vale un sacco positiva. Di soldi, vale un sacco di soldi ed è comunque positivo. Ragazzi, cioè, noi stiamo parlando di una squadra come la Roma che solo ultimamente è un'abbonata più o meno alla Champions League, a parte qualche anno, certo. Ma storicamente non è che la Roma sia una squadra che faceva la Coppa dei Campioni ogni anno, tutt'altro, come sapete. Figuriamoci, diciamo che da quando c'è questa nuova proprietà la Coppa dei Campioni l'abbiamo vista di meno rispetto a quello che accadeva precedentemente. Ma adesso questo qua si dimentica. Io non lo so, adesso sì, però Paolo, ormai non è che si può rimpiangere il tempo andato come i mulini bianchi e altre cose. Ormai ci sono questi, mi sembrano per il momento economicamente solidi, poi si possono contestare le scelte, la presenza, quello che vuoi, ma adesso fare i paragoni con l'epoca Sensi rispetto a questa qua. No, ma io guardo avanti, dico che la Coppa dei Campioni negli ultimi anni è stato un miraggio più che una realtà, ma lo dico per migliorare, cioè io siccome mi preoccupo di cosa farà la Roma in questo campionato, che il secondo posto è decisivo, credo che non ce lo portiamo da casa, se non c'è uno shock a Trigoria, cioè qualcuno che batti pugni sul tavolo, io non sono così convinto che la Roma si porta in la Roma deve vincere, la Roma deve vincere, deve vincere. Io, secondo me Napoli vince tutte le partite, secondo me la Roma deve vincere a Milano, E deve vincere in casa con la Juventus. Boris Sollazzo, se Napoli fa 12 punti arriva secondo, secondo me. Saluto anche Boris Sollazzo che da napoletano che vive a Roma mi dice chi c'ha a Napoli, scusa, ciao Boris. Il Napoli ha il Cagliari in casa, il Torino fuori, alla Fiorentina in casa e alla Sampdoria fuori. Mi sa che il Torino fuori potrebbe, dipende quando, che testa ha il Torino eccetera, secondo me l'ultima con la Sampdoria lascia il tempo che trova, però il Torino è l'unico vero ostacolo del Napoli, diciamo. Se il Napoli fa 12 punti arriva secondo, se il Napoli fa 10 punti, anche semplicemente fa un pareggio fra Torino e Samp o Fiorentina in casa, non lo so, il Cagliari mi sembra un po' più complicato, allora a quel punto se fa 10 punti la Roma 9-10 punti li può fare in queste... No, la Roma fa 6 punti nelle ultime due sicure, però attenzione, non la Roma che abbiamo visto ieri. Beh, comunque 6 punti, adesso non esageriamo Paolo, la giornata prima comunque la Roma ha fatto 4 gol, ragazzi, ha vinto una passeggiata. A Pescara comunque il Milan ha pareggiato e bisogna vincere, sì. Bisogna avere determinazione per vincere comunque anche quelle partite, non è sempre una passeggiata, ripeto. I tifosi della Roma preoccupati oltre alla sconfitta. No, ma le ultime due le vince. Il problema è Milano. La Roma non c'ha sulle gambe, non si vede che sulle gambe se ha la possibilità di fare 90 minuti per vincere una partita, anche qualora te si mette in difficoltà. Ieri la Roma ha giocato un quarto d'ora, i primi 15 minuti, poi è sparita. È questo che lascia la preoccupazione. Sì, sì. Sì, questo è indubbio, l'hanno visto tutti. Paolo, ti ringrazio. Grazie Paolo. Un attimo, posso? Cosa? No, volevo chiedere, visto che c'è Paolo, volevo approfittare. Ieri mi è sembrato un altro test superato dal punto di vista dell'ordine pubblico. Volevo capire che cosa ne pensava lui. Insomma, è sembrato tutto molto sano. Sì, anche qui mi pare che il derby sono ormai a Roma, sono ormai mesi che non accadono, per fortuna, io, fatti che fanno parlare di ordine pubblico invece che di calcio. La riapertura delle curve è stata in questo senso salutare, bene la curva che ha ottenuto questo risultato. Il problema della Roma e dell'Olimpico è che non ce va più nessuno. Questo è il tema che forse bisognerebbe poi affrontare. Un'altra cosa rispetto all'ordine pubblico, Pierre, è molto semplice. La questione ormai, a parte quel famoso derby in cui i tifosi entrano in campo lì per interrompere la partita ormai anni fa, la vera questione ormai non è lo stadio, cioè è fuori dallo stadio. Ormai negli ultimi anni non è dentro, che comunque c'è un problema che riguarda l'occupazione di un territorio spesso fatto da bande criminali. Però il problema vero di ordine pubblico, cioè di scontri eccetera, non è dentro lo stadio, cioè il problema è sempre fuori dallo stadio. No, certo, però ecco, siccome ieri c'è stata poi una parte anche di, non di contestazione ma di silenzio di una parte della curva sud, perché sono stati fatti 60 DASPO, sapete che il 30 secondi, il 4 aprile, quando è stato riaperto, diciamo, sono state tolte le barriere, c'è stato il primo derby nuovamente con le curve, è stato fatto un corteo che mi risulta essere stato assolutamente pacifico, però era una manifestazione non autorizzata e sono state daspate 60 persone. Allora io credo che da un lato da parte dei tifosi, soprattutto in un momento come questo, dove la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri hanno cose ben più importanti, certo, no? Ecco, certo, quindi, cioè il rischio terrorismo, questa è la vera cosa. Quindi questo secondo me i tifosi devono un attimo, secondo me, capirlo, cioè cercare, se possibile, ulteriormente di semplificare il lavoro alle forze dell'ordine, perché ci conviene a tutti. Dall'altro, se si riesce a percorrere una strada sul dialogo, perché insomma, francamente, se cominciamo a daspare per le manifestazioni autorizzate, non riusciamo a risolvere il punto. Non è lo scontro, il punto è trovare una secondo me una convivenza pacifica con delle responsabilità chiare, perché i tifosi che si comportano male devono essere puniti, sì, senza se però, e senza ma. Però il discorso a Roma è anche differente, perché sappiamo quale sia la politica di Lotito nei confronti degli ultra, e sappiamo bene come la proprietà americana con gli ultra della Roma non abbia mai legato. Saluto Paolo Cento, chiedo a Boris Sollazzo di restare. Ciao, ovviamente con noi. Buon primo maggio. Ciao, l'abbiamo appena salutato. Giuseppe, ti fermi. Sì. Pardo ovviamente lì. Borsa, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma no, io mi sento che stiamo compiendo un bel lavoro, sinceramente, perché te l'ho detto, è una squadra nel girone di ritorno, è prima classifica, è una squadra nelle ultime 20 partite ha fatto 50 punti, è una squadra che diverte, è una squadra che ha una classifica superiore alle possibilità economiche attuali, e quindi ci sentiamo che stiamo facendo un lavoro discreto. Poi se si pretende di più, te l'ho detto, secondo me non è giusto, però si può sognare. 11 vittorie in trasferta, record assoluto della storia del Napoli, 2 vittorie a San Siro contro Milan e Inter, non succedeva da 84 anni, campionato 32-33, poi se vogliamo rimanere nell'ambito della storia, per la prima volta l'Atalanta arriverà davanti alle milanesi. Allora, due cose ragazzi, allora la prima, poi voglio sentire Boris su quello che dirò, sulla seconda cosa che dirò. La prima è questa, non apriamo la discussione perché non frega niente a nessuno, sono in totale disaccordo con quello che dice, che ha detto Pierluigi prima, cioè le manifestazioni o si possono fare o non si possono fare. Non è che non si possono fare per i centri sociali, per altri cazzoni qualunque eccetera, e invece siccome bisogna moderare con i tifosi, bisogna stare attenti, una manifestazione o è autorizzata o non è autorizzata. Se non è autorizzata non si fa, e dunque tutti i provvedimenti che poi seguono sono assolutamente legittimi. Non è che, non, cioè, non è, che è sbagliato dare dei provvedimenti perché sono tifosi e dunque bisogna stare attenti alle cose. No, però ti ripeto, una manifestazione o è legale o non è legale. Sono d'accordo, sono d'accordo, e sono io il primo a dirti che mai come in questo momento ovviamente bisogna evitare ogni situazione che possa creare casini. Ma non è che negare non, però, significa, non significa non dare dei provvedimenti quando, quando, quando una manifestazione, una manifestazione o è autorizzata o non è autorizzata, basta. D'accordo, d'accordo, cioè che siano tifosi, che siano centri sociali, che siano netturbini o che siano poliziotti. Fammi sentire Sollazzo, che l'ho appena salutato, poi continuiamo. Andiamo, no, andiamo su Napoli, che è più interessante la seconda. Boris. Salve, salve a tutti. Ciao, cosa ne pensi? Sulle manifestazioni io sono per la libertà d'espressione, quindi a me il concetto di manifestazione non autorizzata mi sembra folle, nel senso che l'importante è comunicare, come facevamo noi quando facevamo politica, il tragitto. Evidentemente non è stato così, Boris. Lo capisco, però insomma, secondo me se si danno delle regole, secondo me verso i tifosi c'è sempre un atteggiamento censorio. Ed è il motivo per cui si mantiene costantemente questo livello di conflitto alto tra forze dell'ordine e tifosi, perché sia gli uni che gli altri hanno un atteggiamento molto più rigido rispetto a quello che avrebbero normalmente, quindi basterebbe insomma che entrambi avessero un'educazione civica maggiore. Molto entrambi, probabilmente... entrambi l'educazione civica maggiore, attribuire ai poliziotti una mancanza di educazione civica, posso, mi sembra, dire una cosa. Poi... non è che devono avere educazione civica, devono... Io ho fatto manifestazioni politiche e sono andato allo stadio anche in curva, e posso assicurarvi che l'atteggiamento verso i tifosi non è l'atteggiamento che si ha verso le manifestazioni politiche. Hai fatto bene a fare la considerazione con i centri sociali, perché i tifosi vengono trattati alla stregua dei centri sociali, e secondo me è sbagliato in tutto. Vabbè, questo io quello che dico, io cambierei argomento, però un secondo solo, ma è un punto così proprio di buon senso, cioè nel momento nel quale tu, dopo un lungo percorso in qualche modo condiviso con un lavoro di responsabilizzazione, e ribadisco, ci deve essere questa, perché se un tifoso non porta male deve pagare, non è che gli stadi devono essere zona franca, quindi da questo punto di vista io la penso così, ma senza se e senza ma se nel momento nel quale tu riapri dopo tanto tempo, trovi questo punto di equilibrio, togli le bandiere, c'è una manifestazione che di fatto è una manifestazione pacifica, non troverete nessun tafferuglio, nessuna notizia di tafferuglio, e dai 60 DASPO, probabilmente, per carità, stai applicando la legge, quindi va bene, ok, però probabilmente la applichi in maniera dura. Basterebbe un filo momento parlarsi, cercare, no, di trovare, vabbè, comunque la seconda considerazione su Napoli, così apriamo un discorso interessante che riguarda il Napoli, ed è questa: per quello che sta facendo il Napoli nelle ultime partite, per quello che ha fatto in Champions League, secondo me c'è un grande rammarico. In realtà il grande rammarico è che secondo me il Napoli era forse la squadra più attrezzata, forse più della Roma, per competere con la Juventus quest'anno. Cioè il Napoli deve mettersi in testa che la sua dimensione, che De Laurentiis vuole, internazionale, non sarà mai tale finché non vince uno scudetto, finché non inaugura una 5, 6, 7 anni in cui compete fino all'ultima giornata per vincere lo scudetto. Quella degli stipendi, ancora una volta questione portata all'attenzione di tutti da Sarri ieri sera, mi sembra un falso problema, perché altrimenti l'Atletico Madrid non avrebbe mai vinto lo scudetto in Spagna, non l'avrebbe vinto, adesso lasciamo perdere il Leicester, in Inghilterra la situazione è un po' più livellata, ma lo stesso discorso si potrebbe fare con altre squadre. Capita una volta, e se gli altri lo buttano via, ma non è solo. Ma l'Atletico Madrid, ragazzi, ha vinto uno scudetto pareggiando all'ultima giornata in casa del Barcellona, e poi ha perso varie finali. Per carità, sicuramente ha fatto più di quello che si poteva, però siamo nell'arco dei sogni, con una programmazione che ha permesso la costruzione di uno stadio. Cioè, il paragone tra Atletico Madrid e Napoli è un falso storico. No, io non ho detto, scusami Boris, non ho fatto un paragone diretto. Io ho detto semplicemente che dire non possiamo vincere lo scudetto finché il monte stipendi nostro è largamente inferiore al monte stipendi della, che poi bisogna vedere quanto. Però è largamente. Giuseppe non ha detto questo, lui ha detto noi possiamo sognare lo scudetto, ma non possiamo programmarlo, cioè sarebbe falso. E secondo me il problema dell'ambiente Roma è esattamente questo, che da una parte c'è Spalletti che dice se non vinco me ne vado, e poi dopo Pescara Roma insieme a Paredes dice siamo arrivati secondi, siamo contenti, e quindi in qualche modo accondiscende ai voleri della piazza, e dall'altro c'è un uomo realista che dice ragazzi abbiamo fatto un punto in più dell'anno in cui ci siamo giocati lo scudetto. L'abbiamo fatto senza Higuain, stiamo facendo un miracolo. Poi lui è il primo a sognare, se no non andrebbe a giocarsela come se la giocava. Chi è più forte, il Napoli o la Roma? Secondo me, come dire, il combinato disposto, usando un termine renziano, di gioco e calciatori è più forte il Napoli. Ma se avessi dovuto dirvi all'inizio della stagione, forse l'ho anche detto, qual era il livello delle squadre, io vi avrei detto che il Napoli era la quarta rosa, perché a mio parere l'Inter, che pure è un gioco sbagliato e tutto quanto, è una squadra che per quanto riguarda i valori assoluti, per me il Napoli, per me il Napoli è per distacco, ma ci sono mille registrazioni, la seconda squadra, la però seconda, scusami Pierre, adesso però, dopo la vicenda Mertens, dopo che quello si è inventato Mertens centravanti, perché altrimenti con la perdita di Higuain nessuno lo diceva, dai. Ma lo dite adesso che ragazzi, il Napoli ha fatto un mercato quest'estate e poi per dirti ha preso Pavoletti che non sa più che fine abbia fatto. Cioè, il Napoli ha una disponibilità economica e certamente sulla cessione di Higuain, però ha investito un sacco di soldi. Il Napoli può spendere 27 milioni per Massimo. Sì, ma quello è scomparso a ottobre, Milik è scomparso a ottobre. Cioè, ragazzi, sì, ragazzi, però voi lo dite, nel momento in cui Sarri è riuscito a far diventare dei top player Zielinski, Diawara, giocatori che venivano dall'Empoli, dal Bologna, giocatori che volevano tutti, no, quello è sbagliato, non la è Roma che di... voleva Zielinski e Diawara, anche Milan voleva Zielinski, ad esempio. Ho capito, ma ragazzi, l'Atletico Madrid non arriva in finale di Coppa Campioni comprandosi i giocatori dall'Empoli e dal Bologna. Beh, ma per carità, tu hai la capacità, perché Giuntoli è un grande direttore sportivo e Sarri è un grande allenatore, hai la possibilità di prendere i migliori talenti in giro. Ma nessuno nega che da questo punto di vista il Napoli abbia una società strutturata, una società che fa ottimi acquisti, una società che è una società forse da questo punto di vista più della Roma, che peraltro ha cambiato la differenza tra Napoli e Roma è che i top player del Napoli sono Aurelio De Laurentiis, Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, che poi hanno fatto diventare top player vari altri giocatori, voglio dire Mertens. Zielinski è un giocatore su cui oggettivamente tutti, c'erano pochi dubbi. Lo stesso Diawara, c'erano dubbi. Per esempio un giocatore su cui c'è un punto interrogativo, ma questo capita a tutti, anche Moggi, che era uno bravo al di là di tutte le considerazioni nello scegliere i giocatori, nessuno lo dice, ma anche lui prese delle toppe pazzesche. E per esempio un giocatore su cui non si sa bene che tipo di futuro potrà avere è Maximovic, perché per adesso perché non ha giocato mai. Giocatore pagato anche 25 milioni non ha giocato mai, ma poi è stato bravissimo, è anche un giocatore che non ha fatto la preparazione con Sarri, che è fondamentale, quindi lo potremo giudicare secondo me. Perché non mi ho detto che è una sola, dico semplicemente bisogna vedere. Poi adesso ha giocato poche partite, certamente per quanto è stato pagato uno poteva immaginare che fosse che fosse più decisivo, potesse giocare più partite, però Sarri non è uno che ti fa giocare facilmente, esatto, anche perché quando ha messo Rog abbiamo capito che pure Rog è un altro giocatore di grandissimo interesse. Ma secondo me la società ha trovato un tesoro in Sarri, nessuno se lo aspettava, che c'erano molti dubbi. È uno che sa gestire molto bene la squadra, certamente non è uno che butta le persone. Ma Napoli è una grande rosa, ragazzi. Napoli ha una grande rosa con grandi ricambi, con una profondità come l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid senza Simeone avrebbe aperto questo ciclo. Cioè gli uomini valgono, nel senso che assolutamente un tempo avevi Maradona, adesso c'è. Ma per questo io dicevo all'inizio, scusami, ma Napoli, dicevo il ciclo l'ha aperto con Mazzarri, scusami, poi ha continuato con Benitez nel bene e nel male. Però scusami, ha pure vinto con Benitez. Però scusami, Boris, tra Napoli e Roma sono che gli allenatori del Napoli non hanno mai accarezzato la piazza e sono sempre stati molto realisti, e questo vale per Mazzarri, vale per Benitez e vale per Sarri. E invece l'errore che hanno fatto i Rudy Garcia, gli Spalletti, è stata quella di farsi prendere dall'entusiasmo della piazza, che come dite voi è assolutamente reale, perché noi sono due squadre che quasi si autofinanziano, che devono combattere anno per anno con una squadra che può diventare campione d'Europa tutti gli anni. E questa è la verità. Sì. Quindi è come se io facessi una gara su appunto Cruciani, Genta, cioè ci sono valori diversi. Però scusami, Boris, però adesso che Sarri non abbia voluto accarezzare la piazza, forse non dal punto di vista degli obiettivi, ma insomma, ti posso tirare fuori 100.000 dichiarazioni di Sarri ad alimentare un po', diciamo, il vittimismo, chiamiamolo così, nei confronti della Juventus. C'è sempre questa cosa per cui anche ieri sera, io apprezzo Sarri per tantissime cose, tranne le parti in cui dimostra o comunque cerca di vellicare il vittimismo che c'è non solo a Napoli, naturalmente anche a Roma, anche nella Lazio nei confronti di altre squadre, eccetera eccetera. Però anche ieri dire questa cosa qua, che i budget, tirare fuori la questione del budget, del monte stipendi della Juventus, ragazzi, i giocatori non è che vale solo quanto li paghi, bisogna vedere se sono funzionali, se sono bravi, non sono bravi, se funziona una squadra, quanto segno, cioè non è che se perché lo paghi 70 milioni necessariamente quel giocatore è forte, o perché guadagna 6-7 milioni l'anno, non è così. La differenza tra programmazione e sogno, dai a Sarri la rosa della Juventus e ti fa il tripleto tutti gli anni. Ma sì, no, ma questa è una non lo so. Questo non lo sappiamo, ragazzi. Ragazzi, io voglio assolutamente parlare pure di un altro argomento. Montari, invito pure Boris Sollazzo a rimanere con noi. Allora, cosa è successo ieri in Cagliari Pescara al 44esimo minuto? È il mio colore. Allora, Montari va dall'arbitro, che era tale Minelli, e fa vedere: è il mio colore, questo è il colore della mia pelle, si sentono le pacche sul braccio. L'arbitro lo ammonisce, lui prende e se ne va. Minuto numero 44, poi si presenta ai microfoni di Sky. No, hanno cominciato così, poi ho detto a loro, anche parlavo con loro, ho detto bravi così. Allora ho girato, a un certo punto l'arbitro mi sono avvicinato e ha detto: ma tu non devi parlare con il pubblico. E lì che lui mi ha fatto incazzare. Ho detto: ma tu chi sei? Ho usato parole anche su di lui, ho detto: ma chi sei? Perché mi dici così? Loro, tu non hai sentito quello che stanno dicendo? E lui ha detto: sì, ma tu non devi parlare, parlo io. Ho detto: no, tu non parli tu. Tu devi avere le palle per fermare la partita. Se tu non hai le palle, quindi chi sei? Arbitro non è solo per stare in campo per fischiare, per fare tutto, non solo devi avere le cose in bocca per fischiare, tutte queste cose devi sentire. Anche okay, Ria D'Amico l'ha invitato a un linguaggio più consono. Sì, la devo riportare a un linguaggio vero colorito, perché siamo ovviamente sul pubblico del pomeriggio con i bambini. No, ma capiamo perfettamente lo stato d'animo. Perché mi ha fatto incazzare, perché sì, con loro, anche quelle che dicevano questa, sono stato tranquillo con loro. Non sono incazzato, ho girato per andare a giocare. No. Però lui è venuto con l'alta voce su di me, che guarda, ho detto, è lì che mi ha fatto, ho detto a lui. Ma e lui è stato fortunato, perché è arbitro non si tocca arbitro, se toccavo arbitro, se riesci, c'è regole per toccare arbitro, lui era sotto terra già. Perché beh, oddio, adesso noi capiamo il suo stato d'animo, ma lei non deve mettere altre cose che poi ovviamente la fanno passare, dalla parte del torto. Ci ha raccontato bene quello che è successo, ci sembra grave? Non puoi, io rispetto tutto, chiaro. Io in campo rispettavo anche altri, parlavano male con lui, ho detto no. Non parlate così, questo qua lui è che gestisce tutto in campo. Chiedete a lui, ho parlato dal primo minuto fino a quell'episodio lì, però tu non puoi alzare la voce su di me, va bene, lo so che non sono nessuno, però non puoi alzare la voce su di me, che io ho ragione, capito? Insomma, alla zanzara, alla zanzaresca, non alla puttanesca, alla zanzaresca. Sì, no, ma devo dire la verità. Aspetta, ho traffico, poi sento la tua e la vostra. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani, direi che Montari si è conquistato sul campo mediatico la convocazione alla zanzara di stasera. No, vabbè, lascia perdere. I giocatori sono è un caso quello che è venuto fuori ieri, altrimenti non c'è mai un linguaggio del genere, almeno non in pubblico. Devo dire che sono rimasto un po' sorpreso, ridevo perché ho visto in diretta tutta la sequenza con Ilaria D'Amico e Montari non mi pare che abbia detto qualcosa di così, tranne un passaggio di cui parleremo dopo, cioè dal punto di vista del linguaggio. Diceva: sono incazzato. Vabbè, cioè, adesso, mi sembra un'espressione vero ripetuta due o tre volte, però Ilaria continuava a dire: no, qui abbiamo un pubblico di famiglie. Ma insomma, io penso che la parola incazzarsi adesso anche alle 7 di sera i bambini non sono a dormire, dai. Insomma, ragazzi, cioè, super storm. Mi è sembrato un eccesso lì da parte di Ilaria di precisione rispetto a un giocatore che era un po' esagitato. No, io ti dico la verità. Grave è quello se non era l'arbitro, se non l'arbitro finiva sotto terra. Quello là è da squalifica, secondo me. La cosa che dico in questa vicenda è questa: Muntari è un giocatore a fine carriera. È un giocatore, un quasi praticamente un ex giocatore di pallone, il quale non dico che lo fa per una questione di visibilità, ma ieri era eccessivamente nervoso nei confronti di che cosa? Di cose che non è che siano state notate in maniera particolare né dai telecronisti né dai giocatori intorno a Muntari, eccetera. Cioè non è che ci fosse questa valanga di bu su cui poi si dovrebbe discutere cosa significa, cosa non significa, se è giusto interrompere una partita o no. Interromperla per i bu, a mio parere, è ridicolo, perché altrimenti ci si presta a mille strumentalizzazioni. In ogni caso, mi sembra sembrando un giocatore particolarmente nervoso. In campo decide l'arbitro, ha ragione l'arbitro quando gli dice col pubblico non ci parli, decido io chi parla, chi non parla col pubblico. Mi è sembrata una reazione scomposta quella di Muntari. Poi sui bu, ripeto, si può discutere, ma Muntari ha sbagliato al 99% rispetto a ieri. Invece oggi viene santificato come l'antirazzista per eccellenza, e l'arbitro viene crocifisso perché non ha interrotto la partita, invece altri avrebbero dovuto interromperla. Sì, altri l'hanno interrotta, ad esempio Irrati, sospese per qualche minuto, Lazio-Napoli per stesse cose. Ripeto, secondo me Tagliavento lo fece con Eto'o, che contava qualcosa di più di Muntari, sempre a Cagliari. Ci ricordiamo tutti di Zorò che prese il pallone sotto il braccio. Non eravamo in presenza di una roba clamorosa per cui tutto lo stadio, eccetera. Ripeto, secondo me è già ridicolo interrompere la partita per dei bu il cui significato è tutto da vedere. Ma anche abbiamo ormai ammesso questa cosa qua, benissimo, ma non mi è sembrato, non c'era ieri a Cagliari poi un posto dove di solito non è che avvengono cose di questo tipo, l'assalto a Muntari, tale da giustificare la reazione che ha avuto Muntari rispetto a quello che ha fatto l'arbitro in campo. Comunque l'idolo assoluto rimane, mio padre, Dani Alves, che al lancio della banana sul calcio d'angolo l'ha presa, si era mangiata. Mi è sembrata una reazione scomposta di un ex giocatore di pallone, a mio parere. Bardo Sollazzo. Ma io non ero a Cagliari, quindi in effetti questo è un elemento abbastanza dirimente, decisivo, nel senso che, permesso che non è che si può fare, diciamo, sui circoli di assisti tanto al chilo e mettersi lì col bilancino, però questo è abbastanza importante. Purtroppo qualche bullo sentiamo spesso. Ma sì. In qualche circostanza sappiamo anche che poi è uno dei principali motivi, diciamo, della difesa. Di questi cori che sono comunque intollerabili e sbagliati, però insomma, se qualcuno dice sono riferiti a un giocatore piuttosto che a un altro, perché in realtà vanno con un giocatore che si comporta in un certo modo, no? Questo è quello che dicono spesso quelli che difendono questi ma io non li sto difendendo, no, figuriamoci, sono d'accordo con te, ma ci sono cori scomposti ovunque, ci sono cori brutti, i cori sono brutti quasi per definizione. Non stiamo raccontando la provocazione vera, che è quella del cartellino giallo. Nessuno avrebbe, lui si sarebbe innervosito se non ci fosse stato il cartellino giallo. Il cartellino giallo è quasi un'adesione dell'arbitro a quello che sta succedendo. Poi onestamente, uno, ti posso assicurare, Giuseppe, che se vai a Cagliari trovi un ambientino niente male, ma noi continuiamo a sottovalutare i lavali col fuoco, continuiamo a sottovalutare i bu, continuiamo a dire che se lo dicono per poco, lo dicono in pochi, allora va bene. E allora però si pretende che i tifosi vengano da stadio se fanno una manifestazione, e poi però invece goliardia se fanno cori infami. Io non ho detto che è goliardia, è questo che si dice. Allora un arbitro che va ad ammonire un giocatore che si sta appellando a una regola che esiste. Ma non è lui a decidere, d'accordo. Non è lui ma a decidere. Lo fa Guadagnino del Milan, è un figo. È lui a sensibilizzare, esatto, è lui a sensibilizzare l'arbitro su una cosa che in quel momento evidentemente lo sta colpendo, no? Cioè, allora, io non so, l'ammonizione non sappiamo, finché non c'è il referto non sappiamo perché è stato ammonito. Allora, può darsi pure che gli ha detto col pubblico. No, perché era chiaramente, non ha avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti del direttore di gara, perché lo invitava a fare qualcosa mentre quello che comanda in campo è l'arbitro. Adesso non c'è l'autorità morale di Muntari per decidere se una partita va interrotta o meno. Cioè non è che decide Muntari, decide l'arbitro. Sbagliato o no che sia, se quello là ha una reazione scomposta nei confronti dell'arbitro, l'arbitro la ammonisce, altrimenti siamo al ribaltamento della realtà. Cioè siamo non solo al fatto che decidono le curve quando si può interrompere la partita o no facendo i bu, e già su quello si dovrebbe riflettere. In più il giocatore si può ribellare alla decisione dell'arbitro in nome del razzismo imperante contro l'arbitro cattivo che non se ne rende conto. Ragazzi, cioè, siamo alla follia, per cui cioè, di che parliamo? Cioè, non... Però comunque i cori cui faceva riferimento sul Lazio, io sono d'accordo con Giuseppe quando dice che possono prestarsi ad elementi di strumentalizzazione, no? Perché ma, cioè, ragazzi, il ma se una curva col fuoco, ma se una curva parte, fa cioè, non scrive, se una curva fa il coro lavali col fuoco, ma è insanzionabile, sono degli imbecilli che restano degli imbecilli, ma non puoi, la sanzione è per una persona. Se tu becchi per strada qualcuno, se un giocatore viene fatto oggetto di imbecilli, tanti o pochi che siano, ma tu devi giocare a pallone, non sentire quattro cazzoni che stanno a 50 metri di distanza. Questo glielo può dire il suo allenatore, perché vuole che non si consenti da un punto di vista, ma infatti più o meno l'ha detto, più o meno l'ha detto Zeman. Sì, ma questo voglio dire, questo è un altro discorso. Ma poi ragazzi, bisogna la prestazione riguarda la concentrazione di un calciatore che non deve lasciarsi condizionare da questo. Ma poi hai ragione tu. La prestazione agonistica. Io dico che se un giocatore viene fatto oggetto di cori, tanti o pochi che siano, in ogni caso l'arbitro non è che lo deve ammonire quasi come fosse una provocazione. Ma l'ammonizione non è, come dice Boris, una specie di adesione ai cori, è evidentemente per la reazione che ha nei confronti dell'arbitro acquiescente, tra virgolette, secondo Muntari, lo stesso Muntari nei confronti dell'arbitro. Se gli dici, oh, ma che stai facendo? Oh, che cazzo fai? Ma io. Tant'è che dopo la reazione di Muntari ti fa capire che qualcosa c'è stato, perché quando dice, gli ho detto delle cose e se non fosse stato l'arbitro sarebbe finito sottoterra, ti fa capire che la reazione di Muntari nei confronti dell'arbitro alla supposta acquiescenza dell'arbitro non è stata proprio una reazione del tipo ah va bene così, bene dammi la mano, ok decidi tu, no, è stata una reazione violenta, forte dal punto di vista verbale ovviamente, che l'arbitro a mio parere senza poi vedremo il referto ha giustamente sanzionato. Però l'ammonizione se la poteva risparmiare. Ma ragazzi, ma tutto si può risparmiare. Ma che vuol dire? Ma che gliene frega a Muntari di essere ammonito? Che gliene frega a Muntari? Quelli sono i processi. Ho capito. Però l'ammonizione se la poteva risparmiare. Ma non gliene fotte nulla a Muntari dell'ammonizione. Era invasato perché evidentemente è nervoso di suo e ha dato retta a quattro cori che venivano da una tribuna. Ma appunto, non è che il simbolo dell'antirazzismo, dai, su, non scherziamo. Ragazzi, avete qualcosa da aggiungere in un minuto? E vi devo salutare stasera 23:10 di chitarra, che va domani sotto il giornale 19, vi voglio bene, dai, ciao, bye. Dai, Boris. Beh, speriamo di vendicare Muntari contro il Cagliari, dai. Va bene, ringrazio Giuseppe Cruciani. Ciao ragazzi, ciao. A stasera Zanzara in diretta. Per salutarvi, poi dopo il giornale radio Formula 1, Leo Turrini, Tiziano Pieri per parlare anche del caso Muntari, ma intanto vi lascio con le lacrime di Juric. Ti sei pentito di essere tornato? Assolutamente no. Cioè, per me le non più belli, però momenti della vita magari più intensi di tutto, perché è in difficoltà la mia squadra. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom, è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. I motori 3, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio di Russia. In potenza Bottas è andato qua all'esterno e Sebastian Vettel, migliore lo spunto di Vettel, ma poi tanta potenza, schiacciato fino a consumarlo al limite il bottone magico della Power Unit della Mercedes con Bottas che prende quindi la leadership del Gran Premio di Russia. Bottas che sta facendo una gara di un altro pianeta dopo la pole position conquistata in Bahrain. Poi magari andranno a chiarirsi Vettel e Felipe Massa. L'ultima curva con Sebastian Vettel arpionato alla sua ala posteriore con Valtteri Bottas che vince il Gran Premio di Russia, vince per la prima volta in carriera, lo fa davanti a Sebastian Vettel che ci ha provato fino alla fine. Questo è ciò che è successo a Sochi il 30 di aprile, cioè ieri. Oggi però è il primo maggio e il primo maggio la Formula 1 e la vita di molti è cambiata, lo ricordiamo subito. Ricorre l'anniversario della morte di Ayrton Senna, sul quale Leo Turini ha scritto un indimenticabile e struggente libro intitolato In viaggio con Ayrton. Ciao Leo. Ciao, come andiamo? Benissimo, e tu? Dopo le sabbiature? Oh, insomma, hai detto bene, un omaggio credo per chiunque abbia amore per lo sport, ma in particolare poi per chi segue le storie dei motori, è una data che portiamo macchiata sulla pelle come una cicatrice. Sì. È passato tanto tempo, quasi un quarto di secolo, però quel weekend di Imola rimane un ricordo devastante. Io tengo sempre a non dimenticare anche Roland Ratzenberger che perse la vita 24 ore prima di Ayrton, 30 di aprile delle qualifiche. Tra l'altro Senna fu l'unico tra i colleghi dello sconosciuto austriaco che si volle precipitare sul luogo del disastro per tentare di capire cosa fosse accaduto, e il giorno dopo suonò purtroppo anche la sua ultima ora. Io guarda, lo dico sempre, quando ho appreso che nell'abitacolo della Williams si era portato la domenica un piccolo simbolo dell'Austria, perché avrebbe voluto, in caso di vittoria nel Gran Premio di San Marino, come lui era solito fare, sventolarlo insieme al drappo brasiliano verde oro, no? Credo che questa sia la memoria più forte, per dare l'idea di quella che era la sensibilità dell'uomo Senna, al di là che non era un santo per vincere le gare, io lo dico sempre, avrebbe anche asfaltato sua mamma, però era una persona di grandissima spiritualità. E poi l'episodio delle due bandiere ti aiuta a tenere presente quando il destino vuole davvero essere... Sì. Simbolico, che ti accosta il milite ignoto della Formula 1 che era Ratzenberger, un perfetto sconosciuto, al campionissimo che era Senna. Sullo stesso circuito, nello stesso obitorio a Bologna, nella stessa stanza che io ho visto. Insomma, è una memoria che non abbandonerà mai. Leo, non vale vale la pena scomodare in questo caso la parola storia con la S maiuscola, perché per la storia, quantomeno quella dello sport, è stato un giorno che ha segnato un'epoca, che ha segnato uno sport, che ha segnato anche una barriera divisoria per quanto riguarda il tifo, una Formula 1, la popolarità della Formula 1, lo diceva anche l'altro giorno Briatore, quindi è stato un giorno storico, oggi primo maggio che ricorre per ben altri motivi, però è un giorno storico anche per quello. È così. Assolutamente sì, anche perché poi hai detto bene, insomma, cambiò tutto dopo, cambiò tutto nel senso che tornò necessariamente la percezione del rischio che accompagnava l'automobilismo, i circuiti vennero drasticamente modificati, sì, le macchine anche, insomma non è più stata la stessa cosa, dopodiché chi c'era naturalmente ha un'immagine di un'epopea, quella appunto di Ayrton, di Prost, di Mansell, di Piquet padre, del giovane Schumacher che era agli inizi che vinse quella corsa, c'era anche già il giovane Häkkinen in pista. E oggi apparteniamo a una dimensione diversa, è giusto anche che sia così, e dato che ho citato Häkkinen, vabbè, diciamo che io sono qui fuori dall'analista, si è creata la coda del mio analista perché ha ricevuto Hamilton che non esce più, Hamilton è in terapia perché questo Bottas lo sta mandando in tilt. Vabbè, ma era scritto, l'avevi detto tu. Ma non era scritto, caro Gita, aspetta, credere che non sapevi, ma no, allora tu sei andato avanti, per delle settimane a dirmi che un finlandese avrebbe vinto in Russia. Cioè, dove la vodka scorre a fiumi. Beh, certo. E io ti ho pensato intensamente, nonostante la tua contumacia. Venerdì, quando Bottas e Raikkonen se le sono date di santa ragione nelle prime prove. Beh, allora ti devo dire comunque che sinceramente io sono sbalordito da quello che sta facendo Bottas, ma mi spiego, tu lo sai. Che tu non consideri un grandissimo pilota. No, ma no, è che ci sentiamo da anni. Io penso che Hamilton, no, sia comunque un fuori classe, al di là del fatto che Rosberg l'anno scorso lo abbia battuto, eccetera. E mi sorprende molto vedere che in queste quattro gare Bottas è stato quasi sempre più veloce del nero. Nel deserto lo hanno dovuto fermare con l'ordine di scuderia, se no l'avrebbe preceduto sul traguardo. In questo weekend russo, hai ragione tu, come sempre, sarà stato effetto della vodka, Bottas ha bastonato Hamilton dal venerdì alla domenica. Sì. Cioè, ieri sentivamo il team radio di Lewis che sembrava un pulcino, anzi avrebbe detto Gianni Agnelli di Baggio, un coniglio bagnato, che chiedeva dall'abitacolo: ma mi sapete spiegare come mai la mia macchina non va? Che cos'hanno gli altri? Ha beccato 36 secondi dal vincitore e da Vettel che è arrivato un palmo dietro. Ma sì, e vorrei anche dire 25 secondi dal figlio di Raikkonen, perché adesso vi faccio una rivelazione, questo secondo pilota Ferrari che va talmente forte è Raikkonen Junior. Abbiamo avuto Rosberg Junior, Villeneuve Junior, Verstappen. Questo è il figlio di Kimi, del Kimi ultimo campione del mondo della Ferrari, che nel 2017, come il suo papà moltissimi anni fa, è ancora in prima fila in un Gran Premio. Non so se mi spiego, è vero. È una bella dinastia questa dei Raikkonen. Non male, però la partenza così rivedibile, direi, quella della rossa. Di tutte e due, devo dire. Appunto, della rossa, beh, ho detto. Beh, però qua adesso, cosa che ti risulterà molto strana venendo da me, dirò una cosa seria. Nel senso che qui bisogna lavorarci. Cioè, da fermo la Mercedes ha un'erogazione della potenza che la avvantaggia nettamente. Almeno questo è quello che abbiamo visto ieri a Sochi, dove c'erano queste curve abbastanza lontane dal via, no? Perché Bottas è stato bravissimo, però io non è che abbia visto degli errori di Vettel e Raikkonen, anche a riguardare il filmato. Non hai l'impressione che loro, hai capito, cioè, abbiano fatto pattinare troppo le ruote, abbiano perso l'attimo fuggente, come nel famoso film del rimpianto Robin Williams. Lì, secondo me, c'è una cosa proprio di messa a punto del sistema di partenza con il quale la Ferrari deve lavorare. Turrini, siamo alla dissezione del pelo, perché, per quanto riguarda il resto, allora, +13 di Vettel nel mondiale piloti, e +1 per l'imprendibile, inacciuffabile Mercedes sulla Ferrari? No, assolutamente. Guarda, se noi prendiamo, diciamo così, il bicchiere pieno, non è andata male per la Ferrari ieri, al di là della vittoria di Bottas, perché Vettel arrivava a Sochi con 7 punti di margine sul tizio qui che mi sta precedendo dall'analista sul lettino, cioè Hamilton è venuto a casa con più 13 e 13 punti dopo 4 gare, sono un buon margine. Poi Vettel è l'unico in 4 Gran Premi che è sempre salito sul podio, sì, tra i piloti di Ferrari e Mercedes, sempre fatto primo e secondo. Però quello che notavi tu è proprio il pelo, dicevi, nel senso che c'è un equilibrio tale di prestazione tra la rossa e la freccia d'argento che, salvo cappottamenti improvvisi, saranno sempre i dettagli a fare la differenza, hai capito? Quindi una partenza, il giro secco in qualifica, la gestione di un pit stop, eccetera. Bisognerà essere bravissimi su queste cose. Certo, ma il dato oggi, politico è questo. Il dato politico oggi, è questo. Dopo la Ferrari, allora, la mettiamo così: a oggi la Ferrari ha preso la Mercedes in termini di prestazione. Non c'è differenza. Abbiamo visto 4 Gran Premi su piste diversissime e nessuno può dire una delle contendenti ha un bonus, no, che consente, insomma, certo, di dormire sonno tranquillo. Quindi bisognerà proprio essere perfetti, eliminare le, diciamo così, le percentuali di errore o comunque ridurle al minimo, perché ci si giocherà tutto proprio su questi particolari. Certo, e l'avversario ovviamente rimane quello che al momento è sdraiato sul lettino dello psicologo. Ma io adesso devo capire, perché onestamente, sai, il DJ Lewis Hamilton, come dice Briatore, no? Tutto l'inverno a pigliare per i fondelli l'usurpatore Rosberg, che si era ritirato, che non era un campione, che qui, che là, che meno male che adesso potrò duellare con Vettel, e tutti da fuori convinti che in Mercedes, per accontentarlo, gli avessero messo accanto un cameriere, e come sempre nei libri gialli il colpevole è il maggiordomo, perché arriva questo Bottas e accoltella Hamilton alla schiena, hai capito? Ma è una storia pazzesca. Io, se Bottas continua così, penso che Hamilton non esce più dalla lista, no, rimane lì in seduta permanente, perché è uno shock per lui devastante, un po' come per me vedere l'Inter in questo periodo. Saluto affettuosamente il mio carissimo amico Stefano Pioli, chi l'avrebbe mai detto, e comunque ci sono ancora 4 partite purtroppo, dobbiamo bere l'amaro calice fino all'ultima stilla, caro Gento, ma lo faremo. Se non hai altri impegni con le sabbiature, ci sentiamo venerdì. No, venerdì penso proprio di poter essere con te, anche perché ci sono le moto, no? La ringrazio. No, vorrei sapere tutte le ultime su Iannone e Belen. Come tutto il mondo, come tutto il mondo. Mi interessa, sono i veri fatti che contano, sono questi, cosa hanno fatto. E parleremo anche ampiamente di un altro rosso che sta dalle tue parti, perché avremo il gran capo di quella scuderia, della Ducati. Ah, cioè, mi fa tutto piacere, io sono un ducatista come passione territoriale, quindi speriamo proprio che, insomma, questo Lorenzo ci dia qualche piccola soddisfazione, perché direi che Lorenzo non è che partito alla Bottas, tanto che abbiamo fatto la conta e quello che dovrà chiedere a Domenicali se lo licenziano a fine stagione o no sarai tu. Perché io sono pronto. Sei uscito per sorteggio, hai tirato la pagliuzza corta. Accetto, anche perché recentemente ho parlato a lungo con Domenicali, il quale mi aveva detto: vedrai come si troverà bene Lorenzo sulla nostra porta. Eccomi qua, sono pronto. A venerdì, allora, maestro. Ciao, Leo Turrini. Un abbraccio. Ciao. Ettore, buongiorno. Ettore, pronto? Sì, eccomi. Pronto? Sì, io sono pronto, e lei? Genta. Dica. Allora, io sono Ettore Tassisi e ti ho già telefonato la settimana scorsa. Sì. Ti volevo parlare dell'Inter, che sono veramente mortificato e amareggiato che sono interista. Sì. Poi mi avevi detto che mi invitavi a Tiki Taka di Pardo. Io? Non mi hai più chiamato? Io ti ho detto che ti invitavo a Tiki Taka. Io? Sì. Ma Pardo mi ha detto: ti faccio chiamare da Genta. Ha detto così? Ha mentito in maniera spudorata. Comunque vedremo di rimediare, non so come. D'altra parte non lavoro a Radio 24, non faccio il conduttore, non lavoro di segretariato. Ma comunque vediamo di fare qualcosa, Ettore, prometto. Luca, buongiorno. Buongiorno, sarò breve. La Juventus, prima di tornare a infilare una serie di scudetti e di vittorie, ha trascorso almeno 5 anni di vacche magrissime con i tifosi fuori dallo stadio che avevano la testa il giocatore, allenatore. Dopodiché, individuati i responsabili, c'è stato un cambio di gestione. Cosa impedisce all'Inter di fare la stessa cosa? Sono un tifoso dell'Inter e quello che non riesco a capire è chi ha potuto costruire questa squadra. Vorrei, ecco, la vostra esperienza, la vostra conoscenza delle cose del calcio. Chi ha potuto costruire questa squadra? Beh, quelli che ci sono attualmente. Non dimentichiamo che la Juventus rinnovò profondamente i quadri dirigenziali in quel periodo. Quindi e questo è importante ed è quello che si chiede, che i tifosi chiedono in primis, almeno quello lungimiranti, non tanto questo o quell'acquisto, quanto di costruire delle, vale anche per Roma, di costruire delle società che abbiano un capo e una coda. Saluto e ringrazio Tiziano Pieri. Buongiorno Tiziano. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, la classica domenica nera per quasi tutti gli arbitri, salvo Rizzoli che ha arbitrato splendidamente Inter-Napoli. Rocchi, naturalmente, che ha arbitrato splendidamente Inter-Napoli. Poi Atalanta-Juventus, arbitro guida, manca un rigore alla Juve, e ieri c'era, ha telefonato un ascoltatore che diceva: sto godendo come un maiale perché stavolta non ci hanno dato il rigore a favore e Strootman ha fatto quello che ha fatto, buggerando Orsato. Sì, ma ci sono errori che ritengo fisiologici. Diciamo che la notizia della domenica non è l'arbitraggio di alto livello di Rocchi, che è semplicemente una conferma, ma gli errori di Orsato l'hanno reso un po' più umano, perché era anni che sbagliava sciocchezze e in questa partita sicuramente ha sbagliato due episodi evidenti e lo rendono più umano e non extraterrestre come è stato fino ad oggi. È una domenica con errori fisiologici. Gli arbitri nelle ultime domeniche stavano facendo bene, si sono fatti trovare bene. Questa è una domenica con qualche inciampo. Abbiamo visto anche a Cagliari un arbitro giovane, e non so se ne avete già parlato, per la problematica Montari. Sì, volevo parlare anche di quello, Minelli. Abbiamo avuto prima una lunga discussione sui macro temi, no? Non tanto sulla decisione dell'arbitro, è un corollario, quanto su ovviamente gli altri temi. Ecco, tu come ti saresti comportato nei panni di Minelli? Dopo è troppo facile dire, sicuramente c'è stata una gestione anomala. Diciamo intanto cosa dice il regolamento in questi casi, ossia le norme organizzative interne della FIGC prevedono, l'articolo 62, che ci sia il responsabile dell'ordine pubblico che chieda all'arbitro di interrompere, perché si scarica tutto sull'arbitro e lui ha sicuramente delle responsabilità di gestione. Forse gli è mancata l'esperienza, ricordiamo che era la terza Serie A. I precedenti di Rocchi stesso, i Ratti, sono arbitri molto più esperti di lui. Diciamo che anche i bordocampisti o comunque gli addetti ai lavori hanno percepito in maniera, forse qualcuno non ha addirittura percepito, questi insulti razzisti. Quindi diciamo che dobbiamo essere contrari agli insulti razzisti e dalla parte di Montari sicuramente. Poi c'erano delle persone, dei ruoli preposti a sentire e ascoltare questi gesti e grida razziste, e dovevano interagire con l'arbitro e sollecitarlo affinché magari la partita venisse anche sospesa temporaneamente. Sì, e come è successo in altre occasioni. E permettere allo speaker, come peraltro è stato fatto a Cagliari, di sollecitare i tifosi a tifare saggiamente per la propria squadra. Ricordo che c'erano altri giocatori di colore nero, da Bruno Alves, se non sbaglio, e Joao Pedro, quindi sì. altri giocatori che avrebbero anche potuto schierarsi, secondo me, visto che erano della stessa squadra, insomma della squadra di casa, e mettersi dalla parte di Muntari. Ecco, non è solo l'arbitro, che sicuramente non ha gestito al meglio, perché a me l'unica cosa che non è piaciuta di Minelli è stata l'atteggiamento troppo rigido, forse avrebbe dovuto stemperare con un atteggiamento più comprensivo. Ecco, questo ritengo che forse sia l'errore di Minelli. Sono d'accordo con te. Senti, l'episodio che vi ho discusso, indubbiamente la simulazione, il tuffo di Strootman, da davvero professionista del trampolino, Sì, è recidivo Strootman, già nel derby di andata con Cataldi aveva avuto qualche problema. In questo caso è una questione di prospettiva. Io non voglio giustificare lo stato, ci mancherebbe, poi come ho sempre detto, per me è il Maradona degli arbitri, però in questo caso è un discorso di prospettive. Noi vediamo quella televisiva dall'alto, che è facilissimo dire che è clamoroso dal basso, per un discorso di prospettiva poteva sembrare sicuramente fallo. In questo caso non è stato aiutato Orsato. Strootman, secondo i regolamenti che ci sono, sarà al 100% squalificato, a mio modo di vedere. Due o tre giornate. Minimo due, ritengo, minimo che due possa essere giusta, forse con la recidiva. Non lo so se il giudice sportivo, su sollecitazione del procuratore federale, valuterà la recidiva. Ecco, allora potranno passare sicuramente a tre, però ritengo che due siano il minimo, anche per dare un segnale, perché il calciatore, ora qui stiamo parlando delle conseguenze, ma possiamo anche ricordare che i calciatori possono anche aiutare gli arbitri, andare dall'arbitro e dire: guarda, non era rigore. Ma quando mai? Questo si vede, si vede una volta ogni classica morte di Papa. Tiziano, un'ultima cosa, rapidissimo, alla luce di questi tre episodi, il famoso VAR in vigore al prossimo anno, dice Nicchi, cosa avrebbe cambiato? Ma sicuramente l'aspetto della simulazione totalmente, ecco, in questo caso avrebbe avuto con pochissimi secondi i 30 previsti, quelli che ci auguriamo tutti che siano in ordine cronologico, questi i secondi che servono alla classe arbitrale, quindi il moviolista, tra virgolette, che sarà nella cabina di regia a comunicare agli arbitri in campo che questa era una simulazione. Per l'aspetto dei burazzisti è chiare, le norme federali sono chiare, evidenti, le normative organizzative interne, ci deve essere una persona, quindi l'ispettore di Lega che sia, o comunque il responsabile della forza pubblica, che collabori con l'arbitro. Non si può solamente scaricare sugli arbitri queste responsabilità, perché gli arbitri sono concentrati sulla partita e possono non percepire burazzisti non evidenti. Solo questo. Grazie Tiziano, grazie, alla prossima. Grazie Tiziano Pieri. Io ringrazio anche Giorgio De Luca, autore di questo programma, Edoardo Lavezzano in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Buon primo maggio a tutti, ma domani è il 2 maggio, ovviamente ci sentiamo con tutti i convocati. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.